Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Più che altro è tutta la storia dell'ultima settimana, ma in realtà dell'ultimo anno. Io non ho più fiducia in questo governo, non l'ho espressa sull'Italicum, anche perché i precedenti sono quelli del De Gasperi peggiore della sua carriera e di Benito Mussolini. Ma io mi chiedo, e chiedo anche ai colleghi del Partito Democratico, se è possibile dopo una fiducia del genere continuare ad avere fiducia di questo governo. Non è un gioco di parole. Non è per niente un gioco di parole, almeno per Civati, per Pippo Civati, che era ascoltatrice e che era ascoltatore, perché oggi ha annunciato ufficialmente che esce dal Partito Democratico. L'aveva detto diverse volte, anche qui effetto notte, nei mesi, non è diciamo soltanto legato all'Italia con questa cosa, è un po' di tempo che è scontento Pippo Civati e gli si chiedeva più volte, insomma, che fa? Prende, lascia, forma un nuovo movimento, un nuovo partito, e a questo punto insomma è arrivato a questa soluzione. Poi capiremo che cosa ha intenzione di fare, naturalmente, forse farà un movimento di vera sinistra, però avremo modo nei prossimi giorni di capire. Intanto vi chiedo di intervenire stasera, in particolare sempre con gli sms al 349 238 6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sulla scuola, perché ci sarà più tardi il sottosegretario all'istruzione Faraone, che ci spiegherà a quali modifiche è aperto il governo Renzi, visto che ieri c'è stato questo sciopero così partecipato. E poi parleremo anche della questione delle pensioni. Dopo la sentenza della Consulta ci sarà il sottosegretario Zanetti, che spiegherà che cosa ha intenzione di fare il governo. Quindi su questi due argomenti, pensioni da restituire, soldi da restituire ai pensionati, e dall'altra la scuola, potete esprimere le vostre opinioni sulla pagina di Effetto Notte, pagina Facebook, oppure con i vostri messaggi sms al 349 238 6666. Ci sono un sacco di argomenti stasera, anche le elezioni in Gran Bretagna, quindi iniziamo. Legge elettorale, il presidente Mattarella firma l'Italicum, Civati intanto lascia il Partito Democratico. Pensioni, dopo la sentenza della Consulta, fonti del governo dicono non rimborsare tutti sarà compatibile con la sentenza. Il sottosegretario Zanetti dice impossibile rimborsare tutti e sarà stasera qui a Effetto Notte. Scuola, Renzi apre a possibili modifiche al disegno di legge dopo lo sciopero di ieri. Ospite questa sera a Effetto Notte il sottosegretario all'istruzione Faraone. Gran Bretagna, si chiude la campagna elettorale e domani si vota, ma c'è il rischio ingovernabilità. Omicidio stradale, nel disegno di legge un emendamento prevede la revoca della patente sino a 30 anni. Immigrazione, la Russia si dice pronta a contribuire per arrivare a un testo di risoluzione dell'ONU. Vitalizi ai condannati, Grasso e Boldrini dicono siamo alla stretta finale, 500.000 firme per chiederne la revoca. Calcio per la Champions, in campo Barcellona-Bayern. Partiamo quindi dalla riforma elettorale. L'Italicum approvato lunedì, firmato oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella, e chi proprio non l'ha digerito questo Italicum e la fiducia, vi dicevo, lascia il PD. Nel giorno in cui Sergio Mattarella firma l'Italicum, Pippo Civati esce dal PD. Il dissidente Dem lo annuncia all'ANSA, precisando che lascia gruppo alla Camera e partito, per coerenza con quello in cui crede e con il mandato che gli hanno dato gli elettori, perché non si sente più di votare la fiducia al governo Renzi. Così Civati. Io sono davvero dispiaciuto, perché quello che è successo settimana scorsa non è superabile. La non fiducia la settimana scorsa non può diventare una fiducia settimana prossima. È un problema troppo grande, Renzi non vuole interpretarne in nessun modo, non vuole dire cambiamo verso, come dice di solito, vuole andare avanti così, è legittimo che vada avanti con quelli che ancora ci credono. Chi non è d'accordo, secondo me, deve scendere dal carro del vincitore, che non è una pratica molto consueta in Italia, ma insomma ne va anche della dignità e della coerenza delle persone. Cade quindi nel vuoto l'appello del premier Matteo Renzi per trattenerlo nel PD. I vertici del partito si dicono dispiaciuti. Lorenzo Guerini. Era già nell'aria, e anche nelle dichiarazioni che nei mesi scorsi aveva rilasciato si lasciava presagire che questo potesse essere l'esito. Sono dispiaciuto, però insomma rispettiamo la sua scelta. Intanto il capo dello Stato Sergio Mattarella firma la legge elettorale al Quirinale, mentre la battaglia si sposta a Palazzo Madama e alle riforme costituzionali. I dissidenti Dem non seguono Civati, ma vogliono cambiamenti sul Senato non elettivo. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi il problema, caos delle pensioni col miliardario, buco che creerebbe nei conti pubblici dopo la sentenza della Consulta il fatto di restituire questi soldi, ma il ministro Padoan ha detto che il governo sta lavorando a misure che abbiano il minore impatto possibile, mentre il sottosegretario Zanetti dice che non è morale, che è immorale restituire i soldi anche alle pensioni più alte. Dovremmo raggiungerlo tra poco, sarà ospite qui Effetto Notte. Per quanto riguarda invece la scuola, dopo lo sciopero di ieri Renzi ha confermato l'apertura a possibili modifiche, e per capire quali quali potrebbero essere queste modifiche. Più tardi ci sarà qui in collegamento, effetto note, il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Occupiamoci anche di immigrazione, perché lunedì se ne discuterà all'ONU. Intanto domani sull'accoglienza è previsto un incontro tra il governo e gli enti locali. Mentre sulle coste italiane continuano gli sbarchi, da Varsavia il ministro degli esteri Gentiloni annuncia: l'Italia ha presentato ai paesi europei del Consiglio di sicurezza ONU, ovvero Francia, Regno Unito, Spagna, Lituania, una bozza di risoluzione contro i trafficanti di migranti. Il documento arriverà poi anche a Stati Uniti, Cina e Russia, il tutto in vista della riunione delle Nazioni Unite di lunedì. All'esame il piano europeo sull'immigrazione, comprese le possibili azioni contro i barconi. Sarà dura, ma nostro obiettivo è avere un quadro legale in cui muoverci, sottolinea Gentiloni, anche perché l'ondata non si ferma. Nelle ultime ore oltre 560 profughi sono arrivati a Napoli, 300 a Messina, 200 nel Salento, più di 400 alla Spezia. Il problema maggiore è l'accoglienza, che ora grava soprattutto sulla Sicilia. Alfano, alla vigilia dell'incontro con gli enti locali, parla di una più equa distribuzione, ma qualcuno non è d'accordo, come la Valle d'Aosta, che dice no, non ci sono posti in più. Il problema è logistico, perché ci può essere in Piemonte, come ci sono, tutto una serie di strutture vuote che possono essere in qualche modo utilizzate, qui non ce ne sono. Così ci spiega il presidente della regione Augusto Rollandin. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche la Russia si è detta pronta a dare il suo contributo per una risoluzione all'ONU nei prossimi giorni, avere un atteggiamento positivo. Poi c'è la Gran Bretagna, si chiude la campagna elettorale, domani si vota, ma c'è il rischio di ingovernabilità e di questo poi parleremo più tardi. Invece la Grecia, la Banca Centrale Europea, avrebbe alzato di 2 miliardi, portandola a 78,9 la soglia della liquidità d'emergenza alle banche greche, lo riferisce l'agenzia Bloomberg. Prosegue intanto il tour del ministro dell'economia Varoufakis, che oggi ha visto Padoan, si è detto ottimista sull'esito dell'Eurogruppo dell'11 maggio. Oggi il ministero delle finanze greco ha versato la tranche da 200 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale per il rimborso del prestito. La prossima, che è ben più corposa, è una tranche da 750 milioni di euro, dovrà essere versata entro martedì. Insomma, sono soldi. Il Parlamento greco intanto ha dato il via libera alla riassunzione di circa 4.000 funzionari impiegati pubblici che erano stati licenziati negli ultimi due anni nell'ambito delle misure di austerità imposte dagli accordi internazionali. E c'è anche questa notizia che dal prossimo autunno il marchio Germanwings non esisterà più. Dopo 12 anni dal suo lancio, il vettore europeo controllato dalla tedesca Lufthansa confluirà in Eurowings, la piattaforma low cost per il lungo raggio. Proprio oggi un altro tassello si è aggiunto al disastro aereo del 24 marzo, appunto dell'aereo Germanwings. Andreas Lubitz, il copilota che si schiantò contro le Alpi francesi uccidendo 150 persone, aveva provato anche all'andata la manovra di discesa a bassa quota. E siamo di nuovo in Italia, parliamo di omicidio stradale perché c'è un emendamento nel disegno di legge, revoca della patente anche quella nautica fino a 30 anni per il pirata che provoca la morte di una persona. Il disegno di legge sugli omicidi stradali cambia con questo emendamento appena depositato dal relatore Giuseppe Cucca del PD. Il reo però dovrà anche essere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti o aver superato i limiti di velocità. A questo proposito, a proposito di codice stradale, a Pavia è arrestato uno dei pirati della strada che aveva investito una giovane consigliera comunale. Lo hanno fermato dopo 6 mesi di ricerche, 6 mesi da quella sera del 12 novembre. Nel centro di Pavia, al volante di un'auto, travolse la consigliera comunale del PD Elena Madama. E non si fermò, anzi, trascinò a gran velocità la giovane, 26 anni, per oltre 500 metri, fino a lasciarla in fin di vita. La polizia lo ha catturato in un parco pubblico di Piacenza. Radion Suvac è moldavo, ha solo un anno in più di Elena, è specializzato nei furti di navigatori satellitari. E quella sera non era da solo, con lui c'era un 18enne russo, che gli investigatori, coordinati dalla procura, stanno cercando anche fuori dall'Italia. Il dirigente della squadra mobile di Pavia, Francesco Garcea. Li abbiamo seguiti soprattutto nella zona Pavia e Milano, ma anche in altri paesi europei. È stata un'indagine estremamente complessa, anche perché avevamo a che fare veramente con dei fantasmi. Dormono 3 giorni da un connazionale, altri 3 giorni da un altro connazionale, quindi hanno una grande mobilità e ieri abbiamo deciso di bloccarlo. Quasi una liberazione per i genitori di Elena Madama, che lottano insieme alla figlia in ospedale. Nazaren Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo qui invece ci rifacciamo agli scontri che ci sono stati il 1° maggio, l'inaugurazione dell'Expo, con una questione un po' particolare, cioè dopo che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha parlato degli antagonisti in tuta nera come devastatori con Rolex al polso, l'amministratore delegato di Rolex Italia ha deciso di replicare oggi con una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno Alfano, pubblicata sui maggiori quotidiani. Nessuna polemica, ha chiarito Alfano, che ha aggiunto: solo il modo, dopo le foto e i titoli dei giornali che parlavano del Rolex, solo il modo per sottolineare una contraddizione, una incongruenza nella protesta. Anzi, mi sorprende che abbiano praticamente rifatto pubblicità. Adesso invece arredo urbano e valorizzazione del patrimonio artistico. Con sabato la soprintendenza di Roma riconsegnerà, dopo 5 anni di lavori, l'area del Porticus Emilia in veste di parco pubblico illuminato e delimitato da un inferriato. Un parco pubblico di 1200 metri quadri. Da questo sabato al tramonto un impianto di illuminazione si accenderà automaticamente e le immagini, se volete vedere, di questa area restituita agli utenti, ai romani e anche naturalmente agli italiani, a chi andrà a visitare Roma, ma potete vedere le immagini sul nostro sito in assoluta anteprima. Invece in anteprima adesso Dario Ricci ci dirà come sta andando la partita Barcellona-Bayern. Dario? Sì Roberta, siamo alla mezz'ora in questa seconda semifinale d'andata della Champions League, mezz'ora di gioco al Camp Nou, risultato ancora sullo 0-0, ma partita che promette e sta già regalando spettacolo. Gran parte del merito va al Barcellona, che lo sai, in attacco a Messi, Neymar e Dracula Suarez, no? Sapevo, immagino, sì. Esattamente, quello che aveva addentato Chiellini negli ultimi mondiali, stanno regalando spettacolo, hanno avuto anche un paio d'occasioni, proprio la più clamorosa al 12° con Suarez, a tu per tu con Neuer, che bravissimo ha respinto di piede la conclusione dell'attaccante uruguaiano. Il Bayern prova a far capolino nella metà campo del Barcellona quando è possibile, finora tiene 0-0 e partita apertissima. Aperta, e quindi dopo apriremo ancora attualmente finestre con Dario Ricci sulla partita di Champions League. Mentre apro i vostri messaggi, gli sms al 349-238-6666, anche quelli sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito di scuola, visto che poi avremo il sottosegretario all'istruzione Faraone, e anche di pensioni, con questo problema che si è creato dopo la sentenza della Consulta. Avremo il sottosegretario Zanetti. Però Adriano torna ancora sul dimissioni di Civati dal Partito Democratico, dice: prima contava poco, ora nulla, lascia il partito, non lo stipendio. Insomma, comunque resta in politica come tanti, Adriano, del resto. Poi invece sulla questione delle pensioni, Elena scrive: se eliminiamo i vitalizi, non solo futuri ma anche quelli in corso, che cifra si riesce a risparmiare? Se la cifra fosse consistente si potrebbe usare per l'indicizzazione delle pensioni e non vale la solita tiritera dei diritti acquisiti. Se le leggi se le fanno e se le votano, di che diritti parliamo? E poi Ugo: e secondo lui quali fasce dovrebbero essere restituite? Poi perché non tagliare i costi della politica e non per finta questa volta? Ugo si riferisce al sottosegretario Zanetti, che ci dovrebbe essere più tardi. Allora, non perdiamo tempo, anzi i vostri messaggi naturalmente arricchiscono Effetto Notte, voi continuate con le vostre riflessioni, aggiorniamo chi viaggia. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, stavo leggendo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche gli sms al 349-238-6666 a proposito delle pensioni ma anche della scuola. Stefano scrive: l'unica perequazione possibile applicare a tutti il sistema contributivo, altro che immoralità nell'includere le pensioni più alte, abolire per legge i sindacati dopo la restituzione dell'IMU mai versata, infine imparare il significato della parola diritto, dice Stefano, e vari altri messaggi. Però adesso vi ricordo, se avete acceso la radio soltanto in questo momento invece di accenderla puntualmente alle 21 con inizio Effetto Notte, vi ricordo comunque le notizie principali. Pensioni, caos, rimborsi, il governo studia una soluzione compatibile con la sentenza della Consulta. Palazzo Chigi dice: valgono solo le parole di Padoan, intanto cercano di minimizzare l'impatto, così dicono a proposito delle misure che stanno prendendo. Il Presidente della Repubblica Mattarella firma l'Italicum, Pippo Civati dice addio al PD e poi Renzi dice: ci credevamo in pochi. Grecia, spiragli sul negoziato, Atene riassume gli statali, intanto le borse rimbalzano su questa schiarita, il ministro dell'economia Varoufakis a Roma vede Padoan. Migranti, l'ONU lavora a una bozza, previsto l'uso della forza, una bozza di risoluzione per affrontare il problema dell'immigrazione. E poi Grasso Boldrini, presidente del Senato e della Camera, sui vitalizi dicono siamo alla stretta finale, ci sono 500.000 firme per chiederne la revoca ai condannati. Scuola, il governo ora apre, Renzi incontra i parlamentari del PD, si va verso una modifica dei poteri dei presidi, ma poi capiremo appunto quali sono queste possibili modifiche. Gran Bretagna al voto, sfida di Cameron Miliband, si rischia lo stallo, pare che siano tra le elezioni più incerte della Gran Bretagna, anche di questo parleremo qui effetto notte. Poi omicidio stradale, c'è questo emendamento depositato questa sera che prevederebbe la revoca della patente fino a 30 anni. Adesso parliamo di pensioni dopo il caso aperto dalla sentenza della Corte Costituzionale di qualche giorno fa che ha bocciato il blocco della perequazione delle pensioni contenuto nella norma Fornero che è all'interno del decreto Salva Italia. Una norma che prevedeva sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il minimo che scattasse il blocco del meccanismo che adegua la pensione al costo della vita. La Consulta però ha decretato che questo blocco è incostituzionale. Ciò significa che lo Stato quindi dovrebbe restituire parecchi soldi ai pensionati. Non è ancora chiaro di che cifra si tratti, ma è sicuramente chiaro che si tratta di una cifra miliardaria, e questo come potete immaginare, se devono essere restituiti così tanti soldi ai pensionati, potrebbe mettere in seria difficoltà questa cosa i conti pubblici. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha fatto dei conti, associazione degli artigiani, il buco ci potrebbe costare oltre 16 miliardi e mezzo. Bruxelles intanto dal canto suo avverte che valuterà l'impatto di questa cosa, ma questo, dice Bruxelles, non deve in ogni caso compromettere l'impegno italiano a rispettare le regole del patto. Il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti ha detto oggi: escludo che sia possibile restituire a tutti l'indicizzazione delle pensioni, per quelle più alte sarebbe immorale, il governo deve dirlo forte, anche se poi in tarda serata le fonti del governo dicono conta le parole di Padoan. Ma c'è qui in collegamento, ringrazio per la disponibilità l'onorevole Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia e leader di Scelta Civica. Buonasera Zanetti. Buonasera. Quindi lei ha detto questa cosa oggi, ha detto che sarebbe immorale restituire i soldi anche alle pensioni alte, però poi è arrivata questa precisazione dal governo, conta solo quello che dice Padoan, è stata un'uscita imprudente la sua? No, ci mancherebbe, guardi che io sono segretario di Scelta Civica, fino a prova contraria noi siamo partiti della maggioranza di governo, tra l'altro anche la recente votazione su Italicum ha dimostrato che senza i nostri i voti, la maggioranza assoluta, quando si fanno un certo tipo di riforme radicali, non c'è neanche. Io porto la posizione del mio partito. Certo, conta la parola assolutamente del ministro Padoan e del Presidente del Consiglio per quanto riguarda la posizione di governo. Per Scelta Civica il governo è opportuno che su questo versante prenda come posizione quella di garantire sicuramente il rispetto, ci mancherebbe, della sentenza della Corte Costituzionale, la quale parla della necessità di interventi di maggiore gradazione, soprattutto a tutela delle pensioni più basse, e quindi lo faccia coniugando però anche il rispetto dell'equità intergenerazionale. Quando io parlo di moralità lo faccio nell'ambito di un ragionamento più ampio. Noi abbiamo un sistema pensionistico che, perché sia sostenibile, ha visto in questi anni sacrifici importanti da parte dei pensionati futuri, i cinquantenni, i quarantenni o ancora di maggior ragione i più giovani, che avranno in futuro pensioni calcolate con il contributivo invece che con il retributivo. Abbiamo avuto sacrifici importanti da parte dei quasi pensionati, che si sono visti addirittura d'arrivo allontanare il traguardo di qualche anno. È assolutamente fisiologico che ci siano dei sacrifici più contenuti, perché è maggiore l'affidamento da tutelare anche da parte di chi è già pensionato, altrimenti questa non è più una comunità nazionale ma una caserma dove vige la regola del chi c'è, c'è. Chiaro che questi sacrifici devono essere più gradati di come sono stati pensati in quella norma, ce lo dice la Corte Costituzionale, quindi benissimo procedere alla restituzione degli importi per le pensioni più basse, ma quando cominciamo a parlare di pensioni alte e l'asticella andrà fissata, noi non ci siamo, sinceramente. Lì è del tutto fisiologico che una parte di contribuzione alla sostenibilità del sistema, che consente di continuare a pagare quelle buone pensioni che un domani i giovani invece si scorderanno, beh, quella norma deve rimanere tutto lì ed è la posizione di Scelta Civica. Se il governo alla fine nelle discussioni che avremo prenderà con la sua maggioranza una posizione diversa, noi su questo punto sinceramente terremo la nostra posizione, perché ripeto, c'è il rispetto della sentenza ma c'è anche il rispetto dell'equità intergenerazionale. Onorevole Zanetti, fonti del governo poi hanno detto in serata che il non rimborso a tutti è compatibile con la sentenza della Consulta, quindi praticamente hanno detto quello che aveva anticipato. Ma sicuramente, lei, a parte che è ovvio, però è giustissimo, io l'ho detto fin dall'inizio oggi quando a margine di una conferenza stampa dove stavamo presentando in realtà un disegno di legge che ha per oggetto delle norme antielusive rispetto alle multinazionali del web, una cosa peraltro a mio avviso molto interessante per il paese, però quando a margine mi hanno fatto una domanda io l'ho chiarito immediatamente che stavo rispondendo da segretario di Scelta Civica, quindi stavo dando la linea del mio partito su questa spinosa questione. È ovvio che su una questione così rilevante per i nostri conti pubblici poi la voce del governo ce la darà il Presidente del Consiglio o il Ministro Padoan, però vede che alla fine, come dire, quando le soluzioni sono tutto sommato anche ragionevoli e attente, ripeto, alla equità in tutti i sensi, poi alla fine lì si arriva. Se poi comunque non arrivassimo lì e si volesse restituire anche per carità chi ha pensioni da 7, 8, 9 mila euro al mese, se ci garantiscono che per fare questo non aumentiamo di un euro le tasse, bene, altrimenti si attaccano. A questo proposito, onorevole Zanetti, sentiamo un breve passaggio di quello che ha detto Padoan su questa vicenda. Posso garantire che stiamo lavorando in tutte le direzioni per ottenere una soluzione che sia conforme alle leggi, che quindi sia assolutamente rispettosa delle decisioni dei giudici, ma che allo stesso tempo minimizzi i costi per la finanza pubblica, che è inutile negare, ci sono. Questi sono costi per la finanza pubblica che intervengono in un momento in cui la finanza pubblica sta migliorando e contiamo che continui a farlo. Quindi capiremo, Zanetti, come si fa a minimizzare l'impatto, no? Lei diceva appunto già restituendo, già come ha detto il governo, anche non a tutti il rimborso, ma quando si parla di diritti acquisiti, per esempio quando si tocca qualcosa che riguarda lo stipendio, i vitalizi dei politici, dice ma quelli sono diritti acquisiti. Diritti acquisiti un corno, quelli sono privilegi acquisiti. Guardi che Scelta Civica ha presentato addirittura in occasione del disegno di legge di riforma costituzionale due emendamenti di rilievo costituzionale finalizzati proprio a consentire interventi sui vitalizi anche di tipo retroattivo, e la norma costituzionale in quel caso è un veicolo fondamentale, perché sappiamo tutti che ogni volta che ci sono gli interventi fatti con le semplici leggi regionali e quant'altro poi arrivano i ricorsi e vincono sempre. Noi abbiamo una posizione che è costante rispetto al tema dei diritti acquisiti quando quei diritti si trasformano in privilegi a danno di altri, che quei diritti non possono continuare ad acquisirli. Temo anch'io purtroppo che mentre gli altri partiti, quando noi proponiamo queste cose sui vitalizi, non ce li votano, quando invece parliamo di questo tema rispetto ai pensionati più normali siano invece più disposti a farlo. Però è un problema loro, noi abbiamo una nostra coerenza e una visione, e anzi ribadiremo ancora con maggiore forza l'opportunità di interventi anche retroattivi sui vitalizi dei politici, che devono esserci, perché se uno fa politica 15 anni e versa un sacco di contributi, ha diritto sui suoi contributi, come tutti i cittadini, né più né meno, di avere la sua pensione. Però ad esempio se quei 15 anni li ha passati 5 anni in regione, 5 in Parlamento italiano e 5 in Parlamento europeo, ha diritto sempre a una pensione sola, non a 3 come accade adesso. Come accade? Questi interventi anche in via retroattiva vanno fatti, noi ci siamo sempre. È vero che alcuni ci sono solo a intermittenza, però è un problema loro, non è nostro. Zanetti, onorevole Zanetti, faccio quest'ultima domanda. C'è la campagna da tempo dei presidenti delle Camere, Grasso e Boldrini, contro i vitalizi ai parlamentari condannati in via definitiva. Già lì si potrebbero anche avere delle risorse, no? Per sacrosanto, rimborsare. Il nostro questore, che è Stefano D'Ambrosio, il questore di Scelta Civica, sul punto è sempre stato uno dei più pressanti, insieme ad altri, tra cui sicuramente ad esempio i componenti del Movimento 5 Stelle, su questo abbiamo posizioni estremamente vicine. È del tutto evidente che quando una persona che ricopre un ruolo pubblico elettivo si macchia di reati come reati di mafia, reati di corruzione, reati contro il pubblico patrimonio, il vitalizio a quel punto, dopo la condanna ovviamente definitiva, ci mancherebbe, il vitalizio se lo può tranquillamente scordare, e questo sarà bene che accada quanto prima. Domani mi sembra che sia una giornata in cui si potrebbero decidere delle cose, no? In merito, se non sbaglio. Sì, domani potrebbe essere una giornata infatti importante, noi sicuramente ci contiamo molto, vediamo, ma noi devo dire da un po' che spingiamo, speriamo che finalmente sia arrivata a maturazione anche da parte di altri un po' più timorosi, che sia arrivata la consapevolezza. Ecco, che, insomma, non sarebbe no, male, può... appunto, rispetto a questa non cosa dei rimborsi, male, dei rimborsi, male. No? Sarebbe grazie. Un'ottima cosa. Grazie onorevole Zanetti, buon lavoro. Grazie, buonasera. Grazie, buona serata. Tra l'altro vedo una notizia battuta dalle agenzie pochi istanti fa a proposito dell'Italicum. Moody's, l'agenzia di rating internazionale, lo promuove, promuove la riforma elettorale, dice potrebbe accelerare le riforme. E comunque avete sentito adesso l'onorevole Zanetti quali potrebbero essere una possibile soluzione per questo caos pensioni, come viene definito. Effettivamente si diceva, visto che... c'è la questione dei vitalizi persino ai parlamentari condannati, ecco, mi parrebbe incongruo, no? Non andare a dare rimborsi a chi ne aveva diritto sulle pensioni e lasciare i vitalizi anche fino a 8.000 euro a diversi parlamentari condannati in via definitiva. Direi di prendersi un pochino di ricreazione al momento, anche se vedo i vostri messaggi sia sulla scuola e sulle pensioni. Per esempio sulla scuola Alf dice: le scuole si sono riempite di incapaci che sono abilitati con un costoso corso post laurea ad esito garantito, caso unico al mondo. Inoltre molti precari non hanno neppure la laurea a scuola di qualità con concorsi severi e selettivi, chiede. Ma tra poco ne parleremo. Comunque voi continuate con le vostre riflessioni, sia con i messaggi al 349-238-6666 e sempre alla pagina Facebook di Fettonote, che è lì per voi. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme, Roberta Giordano con voi, voi con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso il 349-238-6666. Continuate a parlare ancora di pensioni, di caos pensioni di cui abbiamo parlato poco fa col sottosegretario Zanetti. Dice Luigi, tra l'altro: sono un pensionato beneficiario ma sono dispiaciuto per la sentenza. Chiedo, è costituzionale che ci siano alcuni privilegiati come me che hanno goduto del sistema retributivo e altri a cui tocca il contributivo? Non sarebbe più equo ricalcolare tutti col contributivo e mettere un tetto massimo alle pensioni? Pensate, Luigi, che sarebbe tra quelli che godono invece del retributivo, insomma, delle anime abbastanza eccezionali. Poi scrive Alberto sulla pagina Facebook di Effetto Notte: per le pensioni penso che sia l'ennesima figuraccia della nostra classe politica. Il solito percorso, quando si decide qualcosa non c'è una linea politica precisa e univoca. Sì, no, forse vedremo ni, ciascuno con una linea politica diversa e alla fine non si cambia nulla. Poi invece sulla scuola Joe scrive: la meritocrazia per gli insegnanti secondo me si misura in base alla preparazione dei ragazzi. Una commissione esterna che valuti la classe, se non preparate l'insegnante merita un premio. Non è molto chiaro questo messaggio. Marco: la buona scuola dovrebbe parlare di più di didattica. Si dice che il problema sia che gli studenti leggono poco. Ammesso che sia vero, il problema della scuola non è che si legga poco ma che si scrive poco. Insomma, molti vostri messaggi. Tra poco ne parleremo con il sottosegretario all'istruzione Faraone. Vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento invece di accenderla puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali della giornata. Legge elettorale, il presidente Mattarella firma l'Italicum. Civati intanto lascia il Partito Democratico. Pensioni, dopo la sentenza della Consulta, fonti del governo dicono non rimborsare tutti sarà compatibile con la sentenza. Intanto poco fa ospite qui il sottosegretario Zanetti ha riconfermato che è immorale rimborsare le pensioni più alte, perché ha detto sono stati chiesti tanti sacrifici anche a chi ha di meno. Scuola: Renzi apre possibili modifiche al disegno di legge dopo lo sciopero di ieri. Tra poco cercheremo di capire quali possono essere queste modifiche. E poi Gran Bretagna: si chiude la campagna elettorale, domani si vota ma c'è il rischio ingovernabilità. Omicidio stradale: nel disegno di legge un emendamento prevede la revoca della patente sino a 30 anni. Vitalizi ai condannati: Grasso e Boldrini dicono siamo alla stretta finale, 500.000 firme per chiedere la revoca. Calcio: per la Champions Barcellona Bayern se non sbaglio dovrebbero essere sempre, vediamo se c'è l'aggiornamento, 0-0, sì, tuttora nella semifinale. Ora parliamo appunto di scuola. Ieri sapete che c'è stato questo sciopero generale, definito il più grande dei tempi recenti, almeno uno sciopero contro la riforma del governo Renzi e della ministra Giannini, che si intitola La buona scuola. Ci sono alcuni punti particolarmente contestati, che sono, per sintetizzare, la figura del super preside, questo preside che dovrebbe scegliere gli insegnanti da assumere, anche quelli da premiare con denaro, quelli più meritevoli, poi la questione dei precari, naturalmente, e fra le altre il 5 per 1000 che le famiglie potrebbero, secondo questo disegno di legge, devolvere alle scuole, ma che secondo i più critici potrebbero creare delle discriminazioni tra le scuole con famiglie più abbienti e quelle invece che hanno, diciamo, famiglie meno abbienti. In realtà il governo Renzi stesso si è detto disponibile a delle modifiche, comunque a un dialogo, però c'è da dire che ieri, se questo sciopero è stato il più grande degli ultimi tempi, è dovuto a una voglia di partecipazione collettiva, politico-sociale più grande del passato, oppure questa riforma scontenta molto gli addetti ai lavori? Lo chiediamo all'onorevole Davide Faraone, che ringrazio di essere qui. Buonasera. Buonasera a voi. Sottosegretario all'istruzione. Allora, onorevole Faraone, Renzi ha detto che si possono apportare delle modifiche, quindi si può dialogare su questo disegno di legge. Quali potrebbero essere queste modifiche, per esempio? Ma il tema del dialogo non è mai stato in discussione. Da quando abbiamo presentato il progetto La buona scuola abbiamo sempre tenuto aperto il dialogo, semmai abbiamo immaginato canali di interlocuzione e di discussione diversi rispetto al passato. Prima si è immaginato che si potesse discutere e immaginare un dialogo soltanto con, se c'era tra gli intermediari, il sindacato, mentre noi abbiamo utilizzato la mail come strumento di discussione anche con i cittadini, e senza snobbare i sindacati, ma sicuramente immaginando che di scuola potessero parlare non soltanto i professionisti della scuola, ma i cittadini, perché la scuola appartiene ai cittadini. Sui temi nel merito delle proposte di modifica che si possono accogliere, molte le abbiamo già accolte, c'era una discussione in corso in commissione parlamentare alla Camera, abbiamo ad esempio dato più forza al Consiglio d'Istituto, ci è stato detto il dirigente scolastico aveva superpoteri, noi non l'abbiamo mai pensato, abbiamo pensato che semmai c'erano più responsabilità oltre che più poteri, però sicuramente l'idea che fosse il Consiglio d'Istituto il luogo dove stanno dentro studenti, insegnanti, il dirigente scolastico, il personale ATA, i genitori, a costruire il piano dell'offerta formativa, è un elemento di novità che è stato approvato in queste ore in commissione. Quindi sulla figura del super preside c'è effettivamente un possibile cambiamento, perché forse è una delle cose che spaventava di più questa insegnante. Ma più che ridurre i poteri al dirigente scolastico, abbiamo aumentato contestualmente i poteri del Consiglio d'Istituto, che è una sorta di parlamento, di parlamentino delle scuole. Il dirigente scolastico è vero che ha delle responsabilità, però è anche vero che è colui che viene valutato innanzitutto sulle responsabilità che ha. Un'idea di scuola, ma complessivamente di governo della società, senza che vi sia un responsabile di situazioni che possono essere positive o negative, è un'idea un po' perversa che non condividiamo. Quindi comunque, anche se ci sarà il Consiglio d'Istituto, eccetera, quindi del dialogo, del confronto, sarà comunque il preside che sceglierà gli insegnanti, come prevede questo disegno di legge, onorevole Faraone? Ma assolutamente sì, però vorrei anche chiarire che il dirigente scolastico sceglie gli insegnanti fra gli insegnanti precari assunti e che diventano insegnanti di ruolo. Non è vera la favoletta che viene raccontata che il dirigente scolastico può scegliere chiunque. Può scegliere fra i 100.000 insegnanti precari che diventano insegnanti di ruolo, per cui non c'è un'anarchia nella scelta. Dopodiché si costruisce su quella platea lì una squadra che gli dà una mano a portare avanti il piano dell'offerta formativa. Io credo che sia assolutamente legittimo. Onorevole Faraone, le leggo uno dei tanti messaggi che arrivano, per esempio questo di Alessandra, che dice: ho due lauree con 110 e lode, un dottorato di ricerca, due concorsi per abilitarsi all'insegnamento con TFA vinti, un concorso per ottenere la specializzazione sul sostegno vinto, eppure secondo il governo devo ancora fare un concorso per essere assunta nella scuola. Dice: forse ci si dimentica che alcuni insegnanti di ruolo non hanno mai vinto un concorso, noi quanti ne dobbiamo ancora fare? Ma la persona che scrive ha assolutamente ragione, nel senso che negli ultimi anni la politica, i sindacati in genere hanno costruito una serie di gradatorie diverse, con tipologie differenti, in cui sostanzialmente sono stati costretti una serie di insegnanti precari. Ogni ministro che veniva nominato indicava un percorso nuovo per selezionare gli insegnanti. E dentro quel percorso, ogni percorso c'era una graduatoria. Abbiamo sommato 600.000 insegnanti precari. Noi abbiamo deciso di mettere punto rispetto a questa situazione. Non stiamo costruendo altre graduatorie, le stiamo chiudendo. Stiamo costruendo le condizioni affinché ultima infornata di assunzioni, questi 100.000 che assumeremo a inizio di questo anno scolastico, che sono quelli dei graduatori a esaurimento, dal prossimo anno si sarà assunti a scuola soltanto per concorso. Io credo che questo sia un fatto di civiltà. Dopodiché dobbiamo sicuramente garantire il fatto che chi si è formato, chi ha costruito un percorso in questi anni, possa continuare a insegnare, però questa è una fattispecie che in commissione al Parlamento si sta approfondendo. Onorevole Farone, le faccio giusto sentire un brevissimo passaggio della segretaria generale della CGIL Camusso. In questa riforma ci sono tre cose che fondamentalmente non valgono. Una, la divisione dei lavoratori precari, perché i criteri con cui si fanno le assunzioni non sono trasparenti e per molti potrebbe voler dire anche la cancellazione della speranza. Secondo, l'idea che la scuola diventa sempre più elitaria di direzione dei singoli dirigenti scolastici, invece che rispondere a quella necessità che c'è di aumentare il tasso di istruzione, di contrastare la dispersione, di evitare di continuare a essere un paese campione dal punto di vista dei NEET. Il terzo, perché non c'è sulla scuola quell'investimento che la società della conoscenza dovrebbe richiedere, quindi innalzamento dell'obbligo, qualificazione del sistema di istruzione, cioè in realtà non si investe sulla scuola come fonte primaria della futuri cittadini. Onorevole Faraone, ha sentito, come risponderebbe sinteticamente alla Camusso? Ma alla prima, che c'è una scelta fra i precari, cosa dovremmo fare invece? Assumere 600.000 precari anche se ne servono alla scuola 160.000? Lo chiedo in maniera molto serena, ma sapendo che noi dobbiamo partire dal fabbisogno della scuola e non dal numero dei precari, altrimenti rischiamo veramente di non fare una cosa utile alla scuola. La seconda, non è vero che non si investe sulla scuola. La legge di stabilità che abbiamo approvato, non quella che approveremo, quella già approvata, prevede 3 miliardi di euro in più alla scuola, tant'è vero che su quei 3 miliardi di euro abbiamo costruito questo disegno di legge, e cioè è un 8% in più di insegnanti per ogni scuola, che consentiranno di poter praticare l'autonomia e poter annullare le supplenze brevi, che sono delle supplenze fastidiose sia per gli studenti che per gli insegnanti. Supplenze brevi, faccio riferimento a quelle di 1, 2, 3 giorni, che sono veramente un'anomalia del nostro sistema e che in prospettiva puntano a costruire un'abolizione totale delle supplenze, anche quelle lunghe, e in più consentiranno questi insegnanti di praticare l'autonomia, consentendo una autonomia anche della didattica, quindi la possibilità per le scuole che vogliono fare più inglese di poterlo fare, o più educazione alimentare, o più diritto. Le scuole, al di là della didattica tradizionale, potranno mettere in campo azioni alternative di rafforzamento di un'idea progettuale, di un piano d'offerta formativa, che potranno essere messe in campo perché ci sono più risorse umane e più risorse economiche. Onorevole Faraone, le faccio sentire solo quest'ultima cosa, poi abbiamo proprio 20 secondi se ha così voglia di rispondere. Le faccio sentire questa cosa. La verità è che la decisione finale non l'ho maturata sulla legge elettorale, che pure è importantissima, ma ascoltando gli insegnanti ieri nella manifestazione sulla scuola, quando la ministra Giannini dichiarava che era uno sciopero politico, lei è del PD, e però io ho incontrato un sacco di insegnanti del PD che dicevano che non lo votavano più, quindi è un po' un paradosso, no? E forse anche la rappresentazione delle nostre contraddizioni, una ministra del PD che attacca i manifestanti del PD. Faraone, abbiamo proprio 20 secondi, ha sentito la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Civati che se ne va dal PD? È stato l'incontro ieri con gli insegnanti, proprio una battuta, si può? Ma io sono talmente amareggiato del fatto che Pippo non sia più nel PD che non mi va neanche di discutere sul tema per cui ha deciso di lasciare. Va bene, chiudiamo così allora. La ringrazio intanto, onorevole Faraone. Grazie. Buon a lei, proseguimento. Grazie, buona serata. Viabilità. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie, il presidente Mattarella che ha firmato l'Italicum e poi il caos pensioni con i rimborsi per i quali il governo studia una soluzione, abbiamo sentito il sottosegretario Zanetti. Per la scuola abbiamo appena invece parlato con il sottosegretario Faraone per le aperture che il governo intende fare. E adesso invece parliamo di Europa. Europa 24 notte. È stato approvato oggi dalla Commissione europea un programma che mira alla realizzazione di un mercato unico digitale per l'Unione europea. Il mercato digitale è la priorità europea, dice Antonio Tajani, che è il primo vicepresidente del Parlamento europeo e relatore per la proposta di direttiva sull'e-payment. Approvato oggi dalla Commissione europea un programma molto ambizioso finalizzato alla realizzazione di un mercato unico digitale per l'Unione europea. Obiettivo: porre fine alla frammentazione attuale dei 28 mercati nazionali. Tra le iniziative, la fine delle limitazioni per i servizi commerciali online, cioè il geoblocking, la pratica commerciale che consiste nel riservare l'accesso a certi siti solo ad alcuni territori. E poi ancora la riforma delle regole europee sul diritto d'autore, la riduzione degli ostacoli determinati dai differenti regimi per l'IVA, la revisione della direttiva sui servizi media audiovisivi, valutazioni sul ruolo delle piattaforme come Google e ancora riavviare la liberalizzazione delle radiofrequenze. Al via quindi i lavori su questa bozza che verrà presentata al Parlamento europeo con l'obiettivo di diventare una direttiva. Dopo la libera circolazione delle persone, la libera circolazione digitale, perché riguarda la vita dei cittadini europei di tutti i giorni nelle loro operazioni online. Come spiega David Borrelli, co-presidente del gruppo IFID ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, nonché membro della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Commercio Internazionale. Il mercato oggi però è sempre più digitale, sempre più persone acquistano in internet, fanno operazioni in internet, divulgano servizi in internet, quindi bisogna regolamentare il passaggio tra nazione e nazione di beni, servizi e anche di regolamenti per questo tipo di mercato, quindi questo a grandi linee è un po' il mercato unico digitale, servono assolutamente delle norme comuni per tutti e 28 i paesi, pensare che 28 paesi abbiano delle leggi diverse per quanto riguarda per esempio il diritto d'autore, la protezione dei dati personali, pensiamo ai cittadini quando entrano in internet e magari fanno un acquisto online, devono inserire tutta una serie di dati che poi possono essere gestiti da chi e come, questo va regolamentato a livello assolutamente europeo, così come la gestione di tutti questi dati, pensiamo a quelli che vengono chiamati i big data, no? Questa quantità impressionante di dati che per esempio, non so, penso a un motore di ricerca come Google, quando noi cerchiamo qualcosa in internet, lui registra quello che noi cerchiamo e questo può essere usato anche a livelli commerciali. E poi pensiamo anche a tutti i contratti, per esempio, che si fanno online, quindi se io acquisto online, la tutela per il consumatore. Quali sono le novità rilevanti per i cittadini europei? Il geoblocco, per esempio, è uno dei problemi maggiormente sentito, no? Non sarà più possibile andare a bloccare alcuni servizi in alcuni paesi in internet, così come per quanto riguarda i pacchi, noi sappiamo che molte volte addirittura il costo della spedizione è superiore al costo di acquisto del bene. Quanto tempo ci vorrà appunto perché queste regole diventino operative? Là dipende molto da quanto il Parlamento e il Consiglio poi troveranno accordo sui punti che il Parlamento vorrà introdurre. Diciamo che la speranza è che si possa chiudere tutto entro il 2015. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora invece soffermiamoci sulle elezioni in Gran Bretagna col professor Domenico Maria Bruni, che saluto. Buonasera professore. Buonasera. Docente di pensiero politico europeo alla LUIS, esperto di Gran Bretagna. C'è un testa a testa, secondo i sondaggi, tra i Tories, cioè i conservatori, e i laburisti nei sondaggi. Questo potrebbe creare un po' un esito incerto per le elezioni e per la creazione di una maggioranza, professore? Sì, a quanto pare l'esito è molto incerto, sicuramente il più incerto per quanto riguarda le elezioni britanniche negli ultimi 80 anni. Tutti i sondaggi danno i due partiti intorno il 34-35%, ovviamente siccome la ripartizione dei seggi viene fatta con il sistema maggioritario uninominale, quindi collegi uninominali, bisognerà vedere come queste percentuali sono distribuite all'interno dei vari collegi per capire poi la proiezione, la trasformazione dei voti in seggi. La cosa certa è che sarà difficile avere un governo di maggioranza per qualsiasi dei due partiti. Sia dei laburisti sia dei conservatori, se si alleassero con i liberal democratici. Invece pare che abbia un certo ruolo la leader del partito scozzese, Nicola, che sarebbe Nicoletta in italiano, Sturgeon. Esatto, i deputati della Camera dei Comuni sono 650, la Scozia ne deve eleggere 59 è molto probabile che riesca ad eleggere almeno fra i 45 e i 50, quindi manderà una nutrita delegazione di propri rappresentanti a Westminster. Si tenga presente che nel Parlamento che è stato sciolto adesso, lo Scottish National Party aveva soltanto 6 deputati e la stragrande maggioranza dei deputati scozzesi era del Partito Laburista, 41. Il che vuol dire che il Labour Party perderà molti dei propri deputati a favore dello Scottish National Party, che probabilmente sarà il partito di minoranza più forte e quindi quello in grado di avere un ruolo determinante nei giochi parlamentari, a partire ovviamente dalla formazione del governo. Sarà interessante, insomma, vedere domani. Tra l'altro si vota e alle 23 ora italiana di domani sera ci saranno i primi exit poll e diranno come è andata. Ci sarà modo allora di aggiornarsi su questo. Grazie professor Domenico Maria Bruni. Buonasera, ragazzi. Buonasera, professore. Quindi sulla Gran Bretagna ci aggiorniamo naturalmente domani. Vedo un sacco di vostri messaggi invece sulla scuola, ma adesso il tempo stringe. Per esempio ci sono molti che dicono che vogliono abolire i test a risposta multipla, i test invalsi. Ci sarà modo anche di continuare a parlare di questo, visto che oggi Renzi ha incontrato i parlamentari PD su questo tema e noi abbiamo avuto qui il sottosegretario Faraone. Noi invece, a proposito di aggiornamenti, ci aggiorniamo alle 22.